ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. 19ª puntata. Di nuovo l'alba. E dunque, quella sera stessa, la poveretta si trova sul corso di Cloisterham e osserva i numerosi e pittoreschi frontoni della casa delle monache, cercando di passare il tempo come meglio può, fino alle 9. Ha ragione di credere che a quell'ora i passeggeri dell'omnibus in arrivo possano suscitare il suo interesse. Il buio amico a quell'ora le rende agevole accertarsi se questo sia o non sia il caso. Lo è, poiché il passeggero che non va perduto una seconda volta arriva insieme agli altri. E adesso fammi vedere dove te ne vai a finire, avanti. Un'osservazione rivolta all'aria. Eppure parrebbe rivolta al passeggero, tale è la sua compiacenza nell'avviarsi lungo il corso, fino ad arrivare ad un passaggio a volta dove inaspettatamente svanisce. La poveretta affretta il passo, arriva veloce dopo di lui al passaggio, ma vede solo una scala esterna sul lato e sull'altro un'antica stanza a volte dove un signore con una gran testa di capelli grigi è intento a scrivere. La situazione è curiosa, poiché tiene la porta aperta e osserva tutti quelli che passano come fosse addetto all'esazione del pedaggio, che lì non è previsto. «E là!» esclama a voce bassa, vedendola che si ferma di colpo. «Chi cercate?» «C'era un signore che è appena passato, un signore in lutto. Certo che c'era. Cosa volete da lui? Dove sta Gioia?» «In cima alla scala. Benedetta la mia Gioia!» Sottovoce, come fa di nome? «Cognome Jasper, nome John, signor John Jasper. Ce l'ha un mestiere, mio buon signore?» «Un mestiere? Sì, canta nel coro. Nel moro. Coro. Cos'è?» Dacceri lascia le sue carte e viene sulla soglia. «Lo sapete cos'è una cattedrale?» chiede di buon umore. La donna annuisce, all'aria perplessa, mentre fruga nella mente alla ricerca di una definizione. Poi le sovviene che è più semplice indicare l'oggetto stesso nella sua concretezza, massiccio contro il cielo blu scuro e le prime stelle. «Eccola lì la risposta. Entrateci domattina alle 7, così lo vedete il signor John Jasper e lo sentite anche.» «Grazie, grazie.» La veemenza trionfante del ringraziamento non sfugge al tranquillo scapolo all'antica che vive oziosamente di rendita. Le dà un'occhiata, intreccia le mani dietro la schiena, secondo l'abitudine di tali personaggi dell'antica, e indolentemente le cammina a fianco, tra gli echi del sagrato. «O altrimenti», suggerisce accennando con la testa indietro, «potete salirci adesso in casa di Jasper.» La donna lo guarda con un sorriso astuto e scuote la testa. «Non volete parlargli?» Ripete la sua risposta silenziosa e forma con le labbra un muto no. «Lo potete ammirare a distanza 3 volte al giorno, tutte le volte che vi garba, anche se a venirci apposta ne avete di strada da fare.» La donna alza gli occhi di scatto. Se Dacceri pensa che sia questo il modo per indurla a dire da dove viene, allora è di indole molto più ingenua della sua. Ma lo scagiona da un pensiero tanto scaltro, mentre le bighellona a fianco come il perdigiorno patentato della città senza cappello, con i capelli grigi al vento e le mani indolenti che fanno tintinnare gli spiccioli nelle tasche dei pantaloni. Il tintinnio delle monete ha una forte attrazione per le sue avide orecchie. «Che non me la date una mano a pagarmi la notte giù alla locanda, mio buon signore? E il viaggio a casa? Sono una poveretta, altro che con una gran brutta tosse. Vedo che la conoscete la locanda del viandante e che ci state andando. È il blando commento di Dacciuoli che continua a far tintinnare gli spiccioli. Venuta qui spesso, mia buona donna? Una sola volta nella vita. Ah sì? Sono arrivati all'ingresso della vigna dei monaci. La vista del luogo ravviva nella mente della donna un opportuno ricordo che le si presenta come un modello degno di imitazione. Si ferma al cancello e dice con energia: «Magari non ci credete, ma è proprio in questo posto qua che un giovane signore a me mi ha dato 3 scellini e 6 pence mentre stavo a tossire che non ci avevo più fiato, proprio su quest'erba qua. Io gli ho chiesto 3 scellini e 6 pence e lui me l'ha dati». Un po' sfacciato chiedere una somma precisa, no? Osserva Dacciuoli sempre tintinnando. Non si usa lasciar libera l'offerta? A quel giovane signore non poteva sembrare soltanto, che voleste farla da padrona? Sentite qua, Gioia, risponde in tono confidenziale e persuasivo. Mi servivano quei soldi, che ci compravo una medicina che mi fa bene e che ci commercio. Io gliel'ho detto a quel giovane signore e lui me li ha dati. Io sono stata onesta e li ho spesi tutti per comprarmela. E adesso mi servono gli stessi soldi per la stessa cosa, e se me li date, ve lo giuro sull'anima mia, anche stavolta sono onesta e li spendo tutti. Che medicina è? Sono onesta con voi prima e anche dopo, è ovvio. Dacciuoli, con un repentino cambiamento d'espressione, la fissa. È ovvio, Gioia, né più né meno. E assomiglia pari pari a una creatura che tutti gli parlano contro e pochi assai lo lodano. Dacciuoli comincia molto lentamente a contare la somma che gli è stata chiesta. Guardandogli avidamente le mani, lei continua a dilungarsi sul magnifico esempio che gli ha presentato. Era la vigilia del Natale passato e aveva appena fatto buio. Quella volta lì che ci sono venuta e che il giovane signore mi ha dato i scellini e i pence. Dacciuoli smette di contare. Vede che si è sbagliato, mischia le monete e ricomincia da capo. E il nome del giovane signore, aggiunge lei, era Edwin. A Dacciuoli cade qualche moneta. Si china a raccoglierla e il rosso per lo sforzo chiede: «Come fate a sapere il suo nome?» «Io gliel'ho chiesto e lui me l'ha detto. Io a lui gli ho fatto solo 2 domande, come faceva di nome e se ci aveva l'innamorata. E lui a me mi ha risposto. Edwin, e che non ce l'aveva». Dacciuoli si ferma con le monete contate in mano, come assorto in una grave speculazione sul loro valore e restio a separarsene. La donna lo guarda diffidente, mentre le monta l'ira nell'eventualità di un suo ripensamento riguardo al dono. Ma lui glielo offre, come astraendosi dal sacrificio, e lei se ne va per la sua strada con molti ringraziamenti servili. La lampada di John Jasper è accesa e il faro brilla quando Dacciuoli vi si dirige, tornando indietro da solo. Come i marinai che durante un viaggio pericoloso, avvicinandosi ad una costa irta di rocce, seguono i raggi della luce amica del faro per scorgere il porto che gli sta alle spalle e che potrebbero non raggiungere mai, così lo sguardo malinconico di Dacciuoli si rivolge a quel segnale e al di là di esso. Torna al suo alloggio semplicemente per mettersi il cappello, che pare un articolo del tutto superfluo del suo guardaroba. L'orologio della cattedrale segna le 10:30 quando esce di nuovo sul sagrato. Indugia e si guarda intorno, come se una volta suonata l'ora magica in cui Durdles può essere cacciato a casa a sassate, sperasse di vedere il folletto incaricato della missione. In effetti, il potere del male è in giro. Non avendo al momento nulla di vivo da prendere a sassate, Datchery lo scopre nell'empia occupazione di lapidare i morti attraverso l'inferriata del cimitero. Il folletto trova questa attività gustosa e piccante, innanzitutto perché il luogo del loro riposo è dichiarato sacro, e poi perché le alte lapidi, se colpite al buio, somigliano ai vivi quanto basta per giustificare la deliziosa fantasia che provino dolore. Datchery lo saluta con «E là, sbircio!». Lui ricambia il saluto con «E là, Dick!». A quanto pare la loro conoscenza ha raggiunto un buon livello di familiarità. «Guarda, ve!» protesta, «di non andare in giro a dire il mio nome. Io mica ci sto a dirglielo il mio nome. Non lo scucio proprio. Metti che sto in gabbia e che mi vogliono segnare sul libro. Se uno mi fa a me «come ti chiami?», io gli dico «scoprilo». Che se poi quello mi fa «di che religione sei?», io gli dico «scoprilo». Per non dire, aggiunge il bambino, che non ci sta una famiglia di sbirci. Io invece penso che ci sia. E invece no, bugiardo. I clienti me lo danno sto nome per via che non dormo mai in pace e che tutta la notte mi sbattono fuori dal letto. Così prima che un occhio lo chiudo, l'altro ce l'ho già aperto. Ecco perché sbircio. Deputy è l'altro nome che gli va bene per mettermi in gabbia, ma io manco quello glielo dico. E allora usiamo sempre Deputy. Noi due siamo buoni amici, eh, Deputy? Amiconi. Il tuo debito di quando ci siamo conosciuti te l'ho abbonato e un bel po' di monetine ha preso la via delle tue tasche, eh, Deputy? Sì, ma quello che a me mi va di più è che a Jasper te non gli sei amico. E che gli ha preso a quello che si è messo a penzolarmi per aria? Già, che gli ha preso. Ma adesso non ci pensiamo. Stanotte uno dei miei scellini sta prendendo la via delle tue tasche, Deputy. Giù alla locanda è appena arrivata una donna con cui ho parlato un po', una messa male con una brutta tosse. Fumarola! Annuisce Deputy con un furbo sguardo d'intesa e fumando una pipa immaginaria con la testa inclinata di lato e gli occhi sgranati e roteanti. Fuma l'oppio! Come si chiama? Sua Altezza Madama Fumarola. Di sicuro ha un altro nome. Dove sta? Su, a Londra, in mezzo a quelli di mare. I marinai? E io che ho detto? Quelli di mare. E i cianesi. Eppure altri coltellari. Vorrei sapere col tuo aiuto dove sta esattamente. Vabbè, sgancia. Uno scellino passa di mano e nello spirito di fiducia che dovrebbe accompagnare ogni transazione d'affari tra galantuomini, questa operazione è considerata chiusa. Ma vuoi ridere? Senti questa, grida Deputy. Dove ti pare che va Sua Altezza domani mattina? Ci resto secco se non va alla cattedrale. Per l'estasi allunga di molto la parola, si colpisce la gamba con la mano e si piega in due scoppiando in una stridula risata. Come fai a saperlo, Deputy? Me l'ha detto mammo. Dice che apposta si alza presto e si mette in strada. Fa: Deputy, mi serve l'acqua che mi lavo e mi aggiusto, siccome che mi faccio un giro la cattedrale. Datchery accoglie l'informazione con aria soddisfatta, seppur pensierosa, e interrompe il colloquio. Tornato alla sua curiosa dimora, siede a lungo a tavola per la cena di pane, formaggio, insalata e birra che la signora Tope gli ha lasciata pronta, e rimane a sedere anche dopo aver finito. Alla fine si alza, spalanca lo sportello di una credenza d'angolo e osserva alcuni semplici segni tracciati col gesso sulla parte interna. Una mattina luminosa splende sulla vecchia città. Le sue antichità, le sue rovine, sono di una bellezza insuperabile, con le masse d'edera che brillano al sole e gli alberi rigogliosi che ondeggiano nell'aria fragrante. Giochi di luce dei rami oscillanti, canti di uccelli, profumi di giardini, boschi e campi, o piuttosto dell'unico immenso giardino che è l'intera fertile isola d'Inghilterra al tempo del raccolto, penetrano nella cattedrale e sopraffanno il suo odore di terra e annunciano la resurrezione e la vita. Le fredde tombe di pietra vecchie di secoli sentono un nuovo calore e macchioline di luce guizzano fin dentro i più severi angoli di marmo dell'edificio, palpitando come ali. Arriva Top con le sue grosse chiavi e sbadigliando di serra e spalanca. Arriva la signora Top col suo seguito di spiritelli pulitori. Arrivano a tempo debito l'organista e il ragazzino del mantice. Arrivano parecchi corvi da varie parti del cielo, di ritorno dalla grande torre. Presumibilmente godono delle vibrazioni e sanno che la campana e l'organo gliele faranno provare. Arriva un gruppetto di fedeli in ordine sparso, principalmente dalla parte della canonica e del sagrato. Arriva Chris Parkle, fresco e radioso, con i suoi confratelli officianti, non altrettanto freschi e radiosi. Arriva il coro di fretta, sempre di fretta, e arriva John Jasper, che apre la fila. Per ultimo arriva Datchery e prende posto in uno scranno vuoto, uno dei tanti nell'ampia collezione disponibile, guardandosi intorno in cerca di Sua Altezza Madama Fumarola. La funzione è già piuttosto avanti prima che Datchery la scorga, ma finalmente la distingue nell'ombra. È dietro un pilastro, attenta a non farsi vedere dal maestro del coro, ma intenta a osservarlo con la massima concentrazione. Del tutto inconsapevole della sua presenza, lui salmodia e canta. Lei sogghigna quando il suo fervore musicale è più intenso. E sì, Datchery la vede mentre lo fa. Gli agita contro il pugno dall'accogliente riparo del pilastro. Datchery guarda un'altra volta per esserne sicuro. Sì, di nuovo. Brutta e avvizzita come una delle sculture fantastiche che adornano i braccioli degli scranni, malevola come il maligno, dura come la grande aquila di ottone che regge i libri sacri sulle ali, si stringe le braccia magre intorno al corpo e poi agita entrambi i pugni contro il maestro del coro. In quel momento, dietro la grata del coro, sfuggito alla sorveglianza di Top grazie agli equivoci metodi di cui è esperto, Deputy sbircia da dietro le sbarre con occhi penetranti e fissa stupefatto ora chi minaccia, ora chi è minacciato. La funzione si conclude e gli officianti si disperdono per andare a far colazione. Datchery avvicina la sua nuova, recente conoscenza all'esterno, quando il coro, ansioso di levarsi le camicie con la stessa fretta con cui se le è infilate, se l'è già data a gambe. «Buongiorno, allora, signora mia, l'avete visto?» «L'ho visto, Gioia, altro che se l'ho visto.» «E lo conoscete?» «Se lo conosco, molto, molto meglio di tutti i reverendi parroci messi insieme.» La sollecitudine della signora Top ha preparato una bella, linda colazione per il suo inquilino. Prima di sedersi a tavola, apre lo sportello della credenza d'angolo, prende il pezzetto di gesso dal ripiano, aggiunge al suo conto una grossa riga, tracciandola dalla cima al fondo dello sportello, e poi si mette a mangiare con appetito. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens.